7, ma c'è una partita da recuperare. Cito comunque la Gazzetta: Inter, new entry, scala la classifica con i gol dei nuovi. C'è anche la vicenda di Chivu, che ha dato un pugno a un giocatore del Bari, sarà squalificato con la prova TV. Tra l'altro un Chivu distrutto, dice: non so che mi è successo, piange negli spogliatoi, scusate, mi sento un uomo di M, spero che le mie figlie non guardino mai queste immagini. Effettivamente la follia di un giocatore che è sempre stato un giocatore molto, molto abbastanza equilibrato, insomma, non un giocatore che si è mai messo in evidenza per questi episodi. Ma il calcio si interroga anche molto, lo fa anche il Messaggero, sulla Roma. La Roma americana, come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono tante analisi. Per esempio vi segnalo sul Messaggero su chi è questo Thomas Di Benedetto, che sta per acquistare, a capo della cordata americana che vuole acquistare la Roma. Pagina 10, Thomas Di Benedetto in una rarissima foto, un po' personaggio misterioso. La Gazzetta: rompipallone di Gene Gnocchi, primo problema per gli americani che compreranno la Roma, vogliono imparare l'italiano da Totti. Il giornale radio 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.20 e voglio allora salutare il sindaco di Torino e anche presidente dell'ANCI Comuni Italiani, Sergio Chiamparino. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Senta, il federalismo è arrivato così, cioè pareggio alla bicamerale, ma poi un decreto fatto dal governo. Che considerazioni politiche le fa fare? La considerazione politica è che evidentemente questo è il segno di una precarietà politica dell'attuale maggioranza, che getta un'ombra di incertezza sull'intero percorso federalistico, che con questo decreto è solo gli inizi e non è nemmeno il decreto più impegnativo. Lei si è battuto come presidente dell'ANCI, avete ottenuto delle modifiche, alla fine avete detto il governo ci ha ascoltato, però il PD di cui lei fa parte, con Bersani, ha detto è stato un modo di approvarlo assolutamente inaudito. Ecco, lei non, in questa doppia veste, ma non si vede un po' in contraddizione? No, assolutamente no, perché dal punto di vista procedurale, ma intanto non è obbligatorio, che ovviamente l'ANCI non è un partito, quindi... ma è un'associazione di sindaci che tiene conto di tutti, e ovviamente i sindaci esprimono tutta la parte politica del paese, ma al di là di questo, a me pare che questo decreto si sia sovraccaricato di questioni politiche che sono andate oltre al merito che proponeva. Veniamo un po' nei dettagli. Un argomento spinoso sul quale il Sole 24 Ore si è concentrato i giorni scorsi è quello della possibilità di ritoccare l'IRPEF, l'addizionale IRPEF locale. Sì. Secondo Sole 24 Ore, per esempio, Torino è uno di quei comuni dove c'è questa possibilità di ritoccare l'IRPEF, dell'assessore al bilancio, no? Che era stato sentito. A me non risulta, perché noi siamo già allo 0,5. Quindi non se, il dettato della legge, il decreto, se sarà promulgato, mi sembra chiaro, cioè chi ha già allo 0,4 non può usarlo. Però non c'è il timore da parte dei sindaci di passare per impopolari? Lei nei giorni scorsi ha detto siamo stufi di apparire come i vampiri dei cittadini. Ma questa è la vulgata mediatica che cerca di dipingerci in questo modo. È chiaro che autonomia vuol dire responsabilità, nessuno di noi si diverte o a mettere tasse, e credo che ognuno di noi cerca, prima di ricorrere a un aumento fiscale, farà ogni cosa per cercare di razionare le spese, ridurle laddove possibile. Certo che piuttosto che tagliare un asilo nido preferisco chiedere un sacrificio con un addizionale IRPEF che tra l'altro è progressiva e quindi colpisce in rapporto al reddito, mentre invece aumentare le tariffe colpisce solo le persone che in genere sono di ceto medio-medio-basso, perché sono quelle che hanno più bisogno dei servizi pubblici. Il federalismo prevede tra le altre cose anche la possibilità dell'imposta di soggiorno per i capoluoghi di provincia, quelli che hanno finalità turistiche. Torino, secondo lei, può pensare a questo, per esempio? Cioè far pagare i turisti? Adesso noi siamo in fine mandato e quindi è ovvio che scelte di questo genere le faranno, se le faranno, chi verrà dopo di me e di noi. Almeno questa è la mia opinione, in linea di principio assolutamente sì, perché Torino è una città che ha conosciuto un incremento turistico abbastanza significativo. Io credo che chiedere un contributo, che naturalmente a mio avviso dovrebbe essere più piccolo di quello di altri comuni con più spiccate caratteristiche turistiche, da reinvestire nella cura della città, quindi nell'ulteriore abbellimento, a me non sembrerebbe una scelta sbagliata, però ripeto, sono scelte che noi non faremo con il bilancio che stiamo per attuale. Senta, ma sa che sta nascendo un partito di nostalgici dell'ICI, partito nel senso, cioè, comunque di economisti che dicono ma tanto valeva reintrodurre l'ICI e non fare tante storie? Ma io ho sempre sostenuto che tanto valeva non cancellarla, perché come dire, se in tutta Europa, in buona parte del mondo, l'autonomia fiscale dei comuni è garantita con qualche forma di tassa sugli immobili, la ragione ci sarà, solo che in Italia, non solo in questo caso, come dire, le ragioni della politica e della propaganda prevalgono sulle ragioni del buon senso e soprattutto delle politiche concrete. Risponda per esempio a un ascoltatore che ci scrive un messaggio e ci dice: sono un lavoratore dipendente iscritto al PD, sono d'accordo sul federalismo ma non d'accordo sul fatto che sia l'IRPEF pagata da lavoratori dipendenti e pensionati soprattutto a sopportare il maggior peso di questa riforma. Può tranquillizzare il nostro ascoltatore oppure così? Ma ripeto quello che ho detto prima. Primo, nessuno farà ricorso, diciamo, in modo dissennato, e se lo farà il cittadino di quel comune giudicherà il suo sindaco come un dissennato e cercherà di mandarlo a casa. Secondo, dovendo ricorrere a uno strumento fiscale, l'IRPEF è quello meno iniquo, perché quello è vero che va soprattutto sui lavoratori dipendenti, ma va in proporzione al reddito, e ad esempio chi sta sotto a certe fasce di reddito, come sono la stragrande maggioranza dei pensionati, sono esenti dall'addizionale, almeno nei comuni che possono tranquillamente prevedere questa esenzione. L'ultima considerazione, sindaco, è questa: la Lega che dice o passa il federalismo o crolla tutto, cioè faccia un'analisi più politica. Lei, come pare che addirittura il Corriere dica che in realtà si siano accordati Bossi e Berlusconi per andare a votare a maggio, basta solo trovare il pretesto opportuno. Ma io questo non, la mia sensazione è che sia vero il contrario, cioè che la Lega abbia capito che andare a votare in queste circostanze presenta elevate incertezze sulla possibilità di ritornare ad avere una maggioranza, e quindi preferisce cercare di resistere fino all'ultimo abbarbicata a Berlusconi, mettendo in conto, questo io spero che la Lega ne sia consapevole, il rischio che nei passaggi successivi del federalismo, che ripeto saranno ben più impegnativi di questo, perché quando si parlerà di fabbisogno e costi standard per esempio, o di fondo perequativo, verranno fuori le questioni vere del federalismo, no? La differenza fra regioni e regioni anche all'interno della stessa area geografica. E a me sembra che con questa maggioranza così traballante sia difficile scommettere su un esito trionfale del processo. Io intanto la ringrazio, buona giornata. Sergio Chiamparino, buongiorno, è il sindaco di Torino, è il presidente dell'ANCI, ci ha parlato di questo primo passaggio importante sul federalismo municipale. Noi, che dire, ci dobbiamo fermare per la pubblicità e poi il tema del nostro sondaggio. Oggi parliamo ancora di TV e delle il monito, più che le accuse, il monito del Presidente della Repubblica Napolitano, che ha detto: c'è troppa cronaca nera in TV, c'è troppa cronaca giudiziaria, non ci sono le notizie importanti, le notizie internazionali, si dà troppo spazio a notizie come ricordare per esempio i casi di Avetrana, non l'ha citato, ma insomma troppa cronaca nera, troppe cose che non interessano gli italiani. Che dite, siete d'accordo? È così? Perché poi c'è qualcuno che dice: la TV siamo noi, è lo specchio di quello che siamo, e poi se questa è l'offerta è perché questo è quello che la gente vuole vedere, quello che la gente chiede. Votate su radio24.it. c'è troppa cronaca nera secondo voi in TV? Siete d'accordo con il Presidente della Repubblica? Potete anche chiamarci 800 24 00 24, potete andare su Facebook 24 mattino, potete mandarci messaggi 349 238 6666. Insomma, non fate finta, se non volete partecipare, che non c'è un mezzo per farlo. Tra poco 24 mattino. Alle 8:32 minuti siamo qui. Allora, votate su radio24.it come state facendo già in molti, e c'è da dire che l'80% di voi dice: sì, siamo d'accordo col Presidente della Repubblica, c'è troppa cronaca nera, cronaca giudiziaria nei telegiornali, nelle TV italiane. Di questo ci interroghiamo nel nostro sondaggio. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E lo vogliamo fare con intanto il direttore di Studio Aperto, Giovanni Toti. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua, abbiamo, chissà perché ci è venuta subito l'associazione, insomma, se si parla di cronaca nera o comunque di cronaca giudiziaria, abbiamo subito pensato a lei. E voglio salutare anche Massimo Fini, giornalista e scrittore, collabora col Fatto Quotidiano, spesso l'abbiamo avuto ospite. Fini, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Tra l'altro poi so mi hanno detto una cosa straordinaria, ma non la voglio anticipare, perché sta scrivendo un libro su un personaggio che per me mi ha sempre colpito tantissimo, ma non svegliamo nulla, tra poco lo diremo in corso di trasmissione. Allora intanto vogliamo sentire il monito del capo dello Stato, Napolitano, era in visita a Bergamo un paio di giorni fa, credo all'Eco di Bergamo, ha detto questa frase sul ruolo delle televisioni. Hanno finito per occupare uno spazio abnorme nei telegiornali, uno spazio assolutamente abnorme. Le notizie di cronaca nera e cronaca giudiziaria hanno preso il posto di informazioni essenziali che finiscono per essere invece assenti, come poniamo le informazioni di politica internazionale. Questo dunque Napolitano, e però io vorrei partire da Giovanni Toti con tanto due considerazioni. Il direttore del TG5 Mimun oggi al giornale dice: ma insomma, noi facciamo degli speciali con Terra, per esempio di Toni Capuozzo, di cose internazionali, abbiamo il 10-12% di share, basta fare una cosa su Avetrana ed ecco che lo share aumenta al 20-25%. Insomma, è la teoria dell'idea, in fondo la TV propone quello che la gente vuole, la TV è lo specchio di ciò che siamo noi. Direttore Toti, ecco, Studio Aperto, come si regola in conseguenza? Beh, bisogna dire che il capo dello Stato va preso sempre seriamente e noi l'abbiamo ascoltato con attenzione. Dopodiché quello che dice Mimun è assolutamente vero. Se non vado errato, Terra domenica scorsa si è occupato di Egitto, ha fatto un 12% di share. Matrix si è occupato di Egitto due giorni fa, non ha superato il 10% di share. Tutti ricorderanno la trasmissione di Matrix su Vetrana che superò il 40% di share battendo il record storico di Mentana. Dunque è evidente che la gente sia interessata più ai casi di cronaca di casa sua che non alla grande politica estera, ma lo è perché sono casi di cronaca, diciamo, che vengono nella casa accanto, che riguardano la vita di tutti i giorni, mentre l'Egitto viene normalmente vissuto come lontano e non è facile far capire a chi sta a casa quali implicazioni ha un grande evento come l'Egitto nella sua vita quotidiana. Dopodiché è evidente, noi facciamo molta cronaca a Studio Aperto perché il pubblico di Italia 1 è interessato molto alla cronaca. Io credo che lo facciamo sempre stando attenti a rispettare tutte le regole della nostra professione, stando attenti anche a rispettare moltissimo la dignità delle persone, siamo attentissimi per quanto riguarda i minori, poi come lei sa siamo in fascia protetta, certo. Per cui noi abbiamo anche dei vincoli in più, però ritengo anche che la televisione non debba nascondere niente. Insomma, non vorrei, come dire, partire subito dicendo delle cose un po' pesanti, ma era nel ventennio che dai giornali scomparve la cronaca, dove nel paese andava tutto bene, dove tutti si volevano bene, dove l'uomo era felice e quindi non commetteva reati. I reati ci sono, è giusto informare l'opinione pubblica. No, ma su questo senza dubbio, qualcuno dice: beh, c'è il Dio Auditel sul quale poi chi lavora come lei in TV, insomma, col quale si deve riscontrare e confrontare ogni giorno, ogni santo giorno, ogni singolo secondo, ogni singolo minuto. C'è anche chi in passato propose dunque di dire: sospendiamo le rilevazioni Auditel per i telegiornali, così magari questo è un disincentivo. Che ne pensa? Potrebbe... No, non lo so, perché l'Auditel in qualche modo misura anche il gradimento e l'interesse delle persone per determinate notizie. Se noi scolleghiamo del tutto le notizie da quello che interessa la gente, ma lo facciamo al nostro liberissimo arbitrio, sarebbe come non considerare le vendite dei giornali. È come se qualsiasi direttore che pensa alla prima pagina di un giornale se ne fregasse assolutamente di quello che interessa ai propri lettori, ma ci mettesse questo quello che vuole lui. Secondo me mi sembra francamente una semplificazione, e anche una semplificazione pericolosa, perché non tener conto del gusto della gente francamente porta un po' verso un tipo di prodotto, come possiamo dire, quasi etico. Cosa vogliamo darci? Una vocazione di educazione del paese? Certo, ha una funzione anche in questo, sì, per l'amor di Dio, l'informazione. Ma no, la prima funzione è quella di informare, certo, non è il ruolo dei TG, anche questo, anche il Mimun dice, non abbiamo un ruolo pedagogico. Io vorrei, da Massimo Fini, non so se la parola giusta, se il verbo giusto è Massimo Fini odia la TV, forse odiare no, è troppo Fini. Ma io la distruggerei, ma... l'ha distrutta, sì. Lei è andato davanti alla RAI, ha distrutto, sì, un televisore. Come fece il Mullah Omar in Afghanistan, posto che c'è, e poi non è solo una questione di TV, è anche questione di carta stampata. Il monito neapolitano mi suona sinistro, come diceva anche il direttore di Studio Aperto, perché appunto la cronaca nera c'è, esiste ed è di gran lunga aumentata rispetto, non è aumentata nei giornali, nelle TV, è aumentata nel paese. Rispetto per esempio agli anni 50, negli anni 50 i giornali si occupavano moltissimo di cronaca nera e molto meno di politica, ma c'erano meno fatti di cronaca nera. Il delitto Ghiani-Fenaroli si andò avanti per 3 anni perché appunto c'erano molto meno di questi delitti interfamiliari. È anche vero che noi siamo un paese estremamente provinciale, per cui ci occupiamo solo di quello che succede nel catino di casa nostra, però non è il fatto che TV o giornali diano cronaca nera. La TV è un mezzo, Bernabei lo diceva, ha una potenzialità come la bomba atomica, perché da una parte ha un'influenza pesantissima sulle persone, molto più della carta stampata, non ha mediazione. Fenomeno per esempio come quello di Avetrana, era orribile il fatto in sé, ma era anche orribile diciamo, questa massa di persone che andava lì, non certo per pietas nei confronti della ragazza morta, ma perché c'erano le televisioni, ci si faceva vedere e tutto quanto. Però a me il fenomeno che colpisce di più è in realtà il fatto che avviene nella carta stampata, dove i giornali non sono più giornali ma sembrano carri armati che spazzano davanti a sé tutto ciò che trovano, cioè al servizio dell'una o dell'altra banda. A questo proposito, Fini, perché qualcuno appunto dice la cronaca giudiziaria, lei scrive sul Fatto Quotidiano, sì, che per qualcuno è il bollettino, sì, delle procure italiane. Sì, io per la verità cerco di parlare d'altro, proprio perché sono con tutti i Berlusconi e quindi parlo di altre cose, parlo spesso di cose internazionali, per esempio Afghanistan è uno dei miei problemi. Ma a parte questo, però vedo appunto che i giornali, ripeto, collegati strettamente con una delle due bande, la banda dei berlusconiani e anti-berlusconiani, sono diventati, non sembra più degli organi di informazione, sembrano carri armati. Penso per esempio alla incredibile non notizia pubblicata dal giornale sul fatto che Ilda Boccassini 30 anni fa aveva baciato un ragazzo. Orrore. Ne abbiamo parlato. Però ci sono molti ascoltatori agli SMS che dicono: e invece sì, la TV dovrebbe insegnare a pensare. Questo ruolo pedagogico è. Posso rubare ancora due minuti? Sì, certo. Devo dire che la TV di Ettore Bernabei aveva questa cosa, cioè era una TV dirigista che si era proposta questo cosa pedagogico anche nella lingua. Per esempio c'erano addirittura delle venature per unificare, diciamo, l'Italia dei dialetti, e poi in vario senso, insomma, alle 8 di sera non c'erano quello che vediamo adesso, c'erano spessissimo opere musicali, opere teatrali. C'è addirittura andato il settimo sigillo di Bergman alle 8:30, ha osato. Sono cambiati i tempi. È una scelta di fondo. Io sono per un dirigismo intelligente. Bisognerebbe, cioè, quella era una televisione bellissima, a parte l'informazione che era diciamo, era quella ufficiale, sì, ma per il resto culturalmente non c'ha paragoni con la TV attuale, quella che infatti che lei ha distrutto. Voglio sentire intanto un ascoltatore, Moreno da Roma, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Moreno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ospiti. Secondo me, prendendo spunto da quanto ha detto il Presidente della Repubblica, il vero problema è che i giornalisti, i direttori di telegiornali, puntando, come diceva il vostro ospite, all'audience, quindi allo share, sì, puntano più a fare della televisione, mi passi il termine, spazzatura, con gossip, con cose meno importanti, che invece dare informazioni importanti. Le faccio un esempio: quando scoppiò il caso Ruby qualche settimana fa, e adesso già non se ne parla più, io leggendo giornale, un quotidiano, 13 pagine erano per Ruby e la 14ª pagina per un alpino morto. Infatti, noi il ne abbiamo... vero problema è che i giornalisti puntano soltanto a vendere i giornali e sanno che giustamente i gossip spingono di più. Allora, non vorrei prendere la lettera di quanto dice il Presidente, perché giustamente fa degli esempi con la cronaca nera e la vetrana, che sono molto importanti e molto, diciamo così, sentiti. Però non è giusto che danno tutto questo spazio, soprattutto sulla carta stampata, a informazioni molto più leggere. Allora, puntare, qui abbiamo uno che insomma fa il direttore a Studio Aperto, Giovanni Totti, puntare decisamente e solo a quello che la gente vuole di più e quindi al risultato, no? Però scusatemi, io vorrei spezzare una lancia a favore dell'Auditor, che è sempre bistrattato in ogni dibattito sulla TV di qualità, ma l'Auditor, se vogliamo, con tutti i suoi difetti, il fatto che comunque sia un campione che possiamo ritenere rappresentativo più o meno, è la democrazia del telecomando. Quello che stiamo dicendo sulla televisione, se lo applicassimo ai sistemi di democrazia rappresentativa, sarebbe come dire che è meglio che un'aristocrazia intellettuale un po' evoluta, gente che ha studiato e sa come va il mondo, diciamo, l'elite del paese, governasse in nome e per conto delle persone che stanno a casa, perché quelle insomma poi scelgono chi li governa, ma con un gusto un po' discutibile, magari non gli piacciono molto. Il telecomando, l'Auditel, è la democrazia del telecomando. Si va, oggi c'è un digitale terrestre, ognuno ha i suoi giudizi su questa rivoluzione televisiva, ma che ti permette di vedere gratuitamente più o meno una cinquantina di canali davanti al televisore, e ognuno, non mancano i canali dove c'è la musica lirica, dove ci sono film de sé, dove si trova quasi tutto. La Rai, per esempio, per non parlare di casa Mediaset, ha una serie di canali molto belli, Rai Storia, Rai 4. Ma la gente non li vede, diciamolo francamente. La gente ne vede molto poco, o comunque sia, lo vede, alcuni di questi sono successi, però certamente non sono quelli che richiamano più ascolti. Quelli che richiamano più ascolti sono i contenitori pomeridiani ancora di Rai 1, di Canale 5, sono i nostri TG generalisti, che hanno una scaletta, una sequenza di notizie che bene o male incontra o cerca di incontrare, perché spesso non ci si riesce, il gusto della gente. Cioè, alla fine il ragionamento è abbastanza semplice. Io ne parlavo l'altro giorno nella mia riunione di redazione, quando ragionavamo dell'Egitto, che peraltro abbiamo puntualmente messo in scaletta, abbiamo un inviato che sta al Cairo e sta facendo un egregio lavoro per Mediaset. Però io sono stato 2 giorni fuori dalla redazione con mia moglie, tornando ho detto: cari signori, io ho incontrato decine di persone, anche amici evoluti, avvocati, commercialisti, gente che ha studiato con me, nessuno mi ha chiesto qualche cosa sul Cairo, tutti mi hanno chiesto qualcosa sul caso Ruby, su Elisa la ragazza di Perugia, che fine ha fatto Iara e perché non si trova. Se prescindessi da questo, francamente non credo che farei un buon servizio. La TV rappresenta quello che siamo noi, quello che vogliamo noi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? L'80% dei nostri ascoltatori dice: ha ragione Napolitano. Non so se poi sono quell'80% che vanno a cercare anche le cronache di Avetrana, appena, magari facendo zapping, appena ne vedono una si pietrificano davanti alla TV e non si schiodano di mezzo secondo. Claudio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo dire che secondo me Napolitano ha perfettamente ragione. Perché noi non possiamo continuare a fare la televisione inseguendo gli ascolti, perché alla stregua, allora, a questo punto, se vogliono fare degli ascolti esagerati, basta che mandano dei film porno, no? La gente si concentra lì. Ma... ci sono, beh, insomma, ci sono, ci sono, ci sono codici deontologici, ci sono rari orari, ci sono TV che lo fanno, come lei ben sa, caro Claudio. Quindi dica. Queste notizie esagerate continuamente, se uno vuole informarsi, questo è il compito del giornale. Io giornale posso decidere di comprarlo e di leggermi quello che voglio. E infatti, arrivo in televisione, metto sul primo, trovo la stessa cosa, sul due la stessa cosa. Ma guardi, cosa, caro sul... Claudio, però su questo c'è un'offerta televisiva ormai con le satellitari, eccetera, che lei può anche vedersi, come qualcuno ci scrive, Euronews, che per 24 ore al giorno parla di notizie internazionali. Cioè, nel senso, c'è l'offerta di tutto. Ho capito, ma per quale motivo io sono obbligato a comprare Sky per vedere qualcosa che non sia sempre queste cose esagerate? Lei lo vorrebbe sulla Rai, non so, un canale della Rai, perché è servizio pubblico, no, dedicato a tutto questo. Io voglio le notizie sulla televisione, le voglio, non è che non le voglio, ci mancherebbe altro, però non in questa maniera ossessiva. Ti dà la notizia una volta al giorno, due volte al giorno, ma non che, ma non troppo. Dove vai, è una cosa esagerata. Va bene, grazie Claudio. Vasco da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io mi riallaccio un po' all'intervento di questo ultimo ascoltatore, professor, facendo una precisazione. Interpretando il presidente napoletano, io trovo un po', mi si consente un po' ipocrita sentire dire che la democrazia del cielo. Dove va la sua voce, Vasco? Si concentri su di noi per 10 secondi, sennò non la sentiamo più, vai, viene, dica. Forse perché sono in auto. Con l'auricolare, spero, dica. No, sono fermo. Ah. Io ti devo dire, no, le notizie di cronaca vanno date, indubbiamente. Quello che contesto io è che ci sia una dovizia di particolari, un po' morbosi, un po' macabri, intendo dire il poliziotto che indica la macchia di sangue sull'asfalto, o il sentire dire in che modo sono state date certe coltellate, come usciva il sangue. Particolare. Vasco, però lei si è chiesto perché quelle trasmissioni fanno più ascolti degli altri? Cioè, come dire che il problema siamo anche noi che le andiamo a cercare, voglio dire, perché magari lei quando vede queste particolari gira canale o anche lei è un po' attratto da questa cosa? No, devo spegnerlo perché avendo magari un bambino, dei bambini in casa, delle volte la democrazia del comando in questo senso la TV va spenta perché sono particolari che sinceramente io in quel contesto non aggiungono assolutamente niente alla notizia del crimine della cronaca. Lei dice c'è troppa voglia di indagare su questo. Grazie Vasco. Io voglio tornare da Massimo Fini per un attimo. Massimo Fini l'ha citato così prima, il personaggio su cui sta scrivendo un libro, possiamo dirlo? Fini, sì, possiamo dirlo. Sta scrivendo un libro sul Mullah Omar, che è il leader, come lo definisce il mio amico Fausto Miloslavo, il leader guercio dei talebani, no? Guercio. Ha perso un occhio in battaglia. Ha aperto un occhio, per questo 19 anni combattendo contro i russi. Ma è attratto dal fatto che anche lui ha distrutto la TV, sappiamo. Sono attratto dalla sua vita in generale, perché si è battuto contro i russi, si è battuto contro i signori della guerra a favore della povera gente, e adesso tiene in scacco. E però è il leader, cioè è considerato l'uomo che ha inventato il movimento dei talebani. Inventato i talebani è un modo di essere degli afghani, che riguarda solo gli afghani, non dovrebbero essere certo, non dovremmo certamente essere noi a dire come devono vivere lì. Comunque, ritornando al nostro argomento, Toti ha parlato di democrazia del telecomando, io parlerei piuttosto di dittatura del mercato, che non riguarda ovviamente solo la televisione, i mezzi di comunicazione, ma riguarda assolutamente tutto, che è la vicenda che noi viviamo, la viviamo anche in cose che stanno ben fuori l'informazione. In nome del mercato, in nome del business, in nome del coso si fa di tutto, insomma. Noi per esempio stiamo distruggendo in Europa il welfare. C'è un'altra cosa da dire, che la televisione ha un effetto, cioè c'è un effetto sinergico fra televisione e chi la vede, nel senso che chi la vede chiede cose sempre più basse, E chi la fa gliele la dà. La televisione gliele dà, anzi va sotto ancora perché così avrà più audience, e un processo all'infinito che non ha fine. Non ha fine anche perché il prodotto, diciamo così, culturale, fra virgolette, è un prodotto molto particolare, cioè se io ti do una mela buona tu la mangi, se io ti do una mela un po' meno buona tu la mangi, se ti do una mela marcia tu me la butti in faccia, perché quello è un gusto primario. Nell'informazione e nella cultura questo limite non c'è. Cioè si può abbassare di un gradino un po' alla volta e la gente si abitua. Che è avvenuto, diciamo, la televisione nel suo complesso ha completamente non solo deculturalizzato questo paese, il motivo per cui oggi ci si butta tutti in questo modo ossessivo, come dicono alcuni ascoltatori, su queste cose, ma ha anche distrutto tutta una serie di valori pre-politici che esistevano, perché è chiaro, no? Quando un padre dice perché non vai a fare la escort, è anche perché È il prodotto di quello che abbiamo avuto. Ovviamente, quindi che non è responsabilità particolare di nessuno, è il mezzo che noi abbiamo utilizzato senza la prudenza di cui Bernabei, che se ne intendeva, che era un uomo. Lei dice, ci siamo avvitati anno dopo anno su questa cosa. È la rana bollita, la conosce? Come bollita. No, sì, ma non possiamo raccontarla perché ho finito la storia, il paradosso della rana bollita. Allora, ripartiremo dalla rana bollita magari un'altra volta. Grazie a Massimo Fini, giornalista e scrittore, e a Giovanni Toti, direttore di Studio Aperto sul TG di Italia 1. Ci fermiamo con Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè, l'alpino, pronto con la sua penna ad andare in montagna, ovviamente, per questo weekend, con Facebook 24 Mattino. Ci trovate anche lì, e se no lunedì alle 7:20.